Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi vengono anche da Benedetta Acri, che è in redazione a Milano. A Milano c'è sempre Valeria Bernardi. Qui a Trento invece, perché siamo qua in Piazza Pasi al Festival dell'Economia, Valentina Magri in assistenza e regia c'è Paolo Corleoni. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms per domande o commenti se siete sintetici al 349-238-6666. Poi cercateci su Facebook, la pagina è nessunluogolontano-radio24, infine twittate a nessunluogo24. Allora, siamo a Trento in diretta da Piazza Pasi, dove il Festival dell'Economia ospita un tema a noi molto caro, perché si parla di sovranità in conflitto, e noi ribattezzeremo questo tema dicendo sovranità in bilico, o meglio, quale sovranità? Perché? Perché Nessun Luogo ha spesso visitato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, paesi e situazioni in cui la sovranità era messa a rischio. Non erano solo i conflitti o le guerre a farlo, a volte era la dipendenza economica da altri paesi o da altre istituzioni, a volte gli interessi ingombranti dei paesi vicini, a volte la stessa storia che si sedimenta anno dopo anno, decennio dopo decennio, a volte invece è un conflitto che dura da più di 2 anni, come nel caso siriano, e da lì voglio partire questa sera. E partiamo dal teatro siriano e lo facciamo dando innanzitutto buonasera e benvenuta al Vice Ministro degli Esteri Marta Dassù. Vice Ministro, buonasera, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buonasera. Allora, partiamo dal teatro siriano, perché è un caso emblematico di sovranità, più che sovranità in conflitto, sovranità in bilico o forse in pericolo. Ultimamente il puzzle si è complicato ulteriormente, se è possibile, perché già era complicato l'entrata in scena di Hezbollah, la vendita di questi missili S-300 dalla Russia al regime di Damasco rischiano molto ragionevolmente di far espandere il conflitto. La prima domanda, Vice Ministro, che le farei è questa: da 1 a 10 quanto teme un'estensione del conflitto siriano? Sto parlando del vicino Libano, ma sto pensando anche alla Turchia. Ma un'estensione del conflitto siriano purtroppo c'è già, nel senso che il Libano, nonostante abbia tentato di tenersi da parte, di fatto viene risucchiato nel conflitto siriano, in parte perché, come lei ha già detto, i miliziani di Hezbollah, quasi 7.000 persone, stanno combattendo sul terreno in Siria e quindi dalla Siria arrivano attacchi contro città libanesi. Nella notte di ieri è stata colpita Baalbek, che è una città della valle della Bekaa, quindi di fatto siamo già in una situazione in cui il destino della guerra civile in Siria non riguarda solo chi comanderà a Damasco, il tema più classico, diciamo così, della sovranità, ma riguarda gli equilibri dell'intera regione, riguarda i rapporti fra gli Stati Uniti e la Russia, riguarda il grande conflitto che è nato in tutta quella fascia di mondo, cioè questo grande clivage fra potenze sunnite come l'Arabia Saudita e il Qatar e potenze sciite come l'Iran. Quindi davvero un conflitto molto duro, con costi umani spaventosi, più di 80.000 persone, oltre a un numero molto forte di persone interne displaced, come si dice, quasi 4 milioni di persone, e un numero enorme di rifugiati nei paesi confinanti, in Giordania e in Turchia, 1,5 milioni di persone. Quindi quasi 6 milioni di siriani sono stati colpiti da questo conflitto. L'Italia ritiene, credo sia giusto col ministro Bonino, che ci sia un'enorme emergenza umanitaria a cui ci stiamo dedicando. Ecco, dopo apriamo il capitolo umanitario. Dopo più di 2 anni di conflitto, con i numeri tragici che lei ha ricordato, non crede che la diplomazia si stia muovendo troppo lentamente a fronte di questi numeri? Non c'è dubbio, è un caso di lentezza e di indecisione, di grandi fallimenti. mettendomi un po' nelle scarpe di un osservatore, diciamo così, più che di una persona che fa politica estera in questo momento. Io credo che la cautela americana sia molto dovuta al fatto che per gli Stati Uniti la Siria è una sorta di nuovo Iraq, quindi visto l'esito della vicenda irachena c'è una grandissima prudenza di intervenire dall'esterno. Sì. Ricordiamo che ancora adesso, ancora nel mese scorso, ci sono stati più di 1000 morti in Iraq, quindi sì. per gli Stati Uniti intervenire in Siria in questo momento, per Obama che è molto ripiegato sulle proprie vicende interne, è molto difficile. John Kerry sta tentando di tutto per convocare questa famosa conferenza di Ginevra 2, ma l'America non intende intervenire direttamente. Per la Russia si tratta invece di non cadere in un precedente libico. La Russia si è sentita in qualche modo presa in giro, diciamo così, fra virgolette, dalla vicenda libica, perché aveva votato la risoluzione delle Nazioni Unite che poi è stata in qualche modo utilizzata per l'intervento. Quindi la Russia fa un suo gioco in appoggio ad Assad. In realtà i missili di cui lei parlava sono stati promessi, ma non sono stati ancora venduti, e come lei ha visto, fossero stati venduti, Israele ha già annunciato che opererebbe una retaliation, una ritorsione, perché dal punto di vista di Israele si tratta di armi che finirebbero almeno in parte nelle mani di Hezbollah e quindi che potrebbero essere usate nel conflitto invece fra Israele ed Hezbollah. Ecco, fra l'altro, Vice Ministro, va ricordato che questi missili S-300, io non sono un tecnico esperto di cose militari, però hanno una gittata e una potenza tale da mettere seriamente in pericolo e far saltare sulla sedia quelli che sono i colonnelli e gli alti dirigenti militari appunto in Israele, come giustamente lei già ricordava. Sì, un altro effetto è di rendere di fatto impossibile, molto difficile una no-fly zone, uno dei modi che in teoria ci sarebbero per attuare una politica attiva di protezione umanitaria, ma che segnerebbe il primo passo di un intervento nel conflitto che, lo ricordavo prima, in realtà nessuno vuole. Sì, fra l'altro di no-fly zone se ne parla veramente da molti, molti, molti mesi. Apriamo il capitolo umanitario, perché tutti si chiedono: è possibile aprire dei corridoi reali, efficienti, efficaci? C'è una soluzione, c'è una ricetta per in qualche modo imporre un'attività umanitaria degna di questo nome nel complicato conflitto siriano? È molto difficile, la Siria in questo momento è divisa per aree, infatti uno dei rischi, e questo è il suo tema generale, quello della sovranità, è che poi alla fine si abbia una frammentazione, una spaccatura di questo paese. È in atto una offensiva molto importante su Qusair, che è una città strategica dove Assad sta cercando di recuperare il terreno ai danni dell'opposizione, perché collega Damasco alla costa. In ogni caso ci sono delle zone, per così dire, liberate, cioè in mano a quella che è il vasto arcipelago dell'opposizione, e lì si riesce in qualche modo a dare degli aiuti umanitari. L'Italia ha dato in questi mesi, in parte erogato, in parte promesso, ma insomma si sta impegnando fortemente, una cifra equivalente a circa 22 milioni di euro. In parte questi riusciamo a farli affluire effettivamente in Siria, attraverso gli organismi internazionali, attraverso le Nazioni Unite, attraverso la Croce Rossa siriana, attraverso il World Food Program. In parte li diamo invece nei paesi confinanti, dove, come ricordavo prima, ci sono dei campi profughi con numeri enormi per i paesi, per esempio la Giordania ha un numero enorme di profughi, abbiamo dato un ospedale da campo e diamo aiuti sia in Giordania che in Turchia. Certo non basta mai niente, per così dire, ma stiamo facendo uno sforzo molto consistente, e il ministro Bonino ha annunciato proprio oggi che andrà a visitare i campi profughi nei paesi limitrofi della Siria, insieme alla commissaria europea per gli aiuti umanitari, che è la signora Georgieva, un commissario bulgaro agli aiuti umanitari. Ecco, già che prima ha quasi smesso i panni del Vice Ministro, glielo faccio fare ancora. Chi è, secondo lei, chi potrebbe giocare un ruolo effettivamente di mediatore efficace? Si parla tanto dell'Iran, ma poi lo si coinvolgerà davvero? Chi veramente può dare una svolta a questo lungo? L'Iran è tutto meno che un mediatore, come lei sa meglio di me. l'Iran è la grande potenza sciita, appoggia Hezbollah. Chi è che può giocare un ruolo veramente importante nelle prossime settimane? Ma, insomma, la cosa fondamentale è che gli Stati Uniti e la Russia, prima di tutto loro due, trovino un vero interesse comune a far finire questa tragedia, e dal nostro punto di vista, nella nostra percezione, sicuramente John Kerry ha questa determinazione, e i russi stanno cominciando a valutare che tutto sommato anche per loro questa vicenda comincia ad avere più costi che non dei vantaggi. I russi vogliono in qualche modo difendere anche la loro posizione in Siria, come sappiamo hanno una base militare importante, ma insomma credo che siano ugualmente interessati ad un accordo. Ma poi c'è l'Iran, come lei ricordava, c'è l'Arabia Saudita e il Qatar, che sono due paesi molto importanti in tutta questa vicenda, a sostegno del vasto arcipelago dell'opposizione ad Assad. Quindi è un mondo molto più complicato di quello che eravamo abituati a conoscere un tempo, perché la sola volontà, diciamo così, di una grande potenza esterna non basta più a produrre degli esiti sicuri. La crisi dell'interventismo democratico è stata evidente non solo e non tanto in Afghanistan, dove pure lo è stata, ma anche in Iraq. Quindi direi che è un'intera fase che in qualche modo si è chiusa, che era cominciata nei Balcani, oggi è molto più difficile attuarla. Quindi davvero la ricerca di una soluzione politica è importante anche per questo, però su Ginevra 2 non si ha per ora nessuna certezza vera. C'è una pre-riunione il 5 giugno, appunto, con le Nazioni Unite, gli Stati Uniti, la Russia, la Lega Araba, ma è in quella riunione che ancora si deciderà quale sarà il formato, quali saranno i paesi che parteciperanno. Fiducia da 1 a 10 su Ginevra 2? 5 e mezzo. Allora, Vice Ministro, adesso, prima di lasciarla al suo lavoro, un'ultima domanda che è quasi una provocazione. Visto che si parlava di questo vasto arcipelago dell'opposizione militare siriana, vi sono brigate legate ad Al-Qaeda. Visto che qua a Trento si parla di sovranità, c'è il rischio di una sovranità di gruppi terroristici, quindi una sovranità terrorista, forse insomma un'etichetta un po', come dire, un po' al limite? Beh, non molto al limite, purtroppo. In parte del Sahel, problema di cui probabilmente parlerete, si era creata una situazione di questo genere. L'intervento francese in Mali è stato anche per quella ragione, perché dopo il conflitto contro si era creato nel nord del paese una specie di territorio rifugio, di un incrocio fra fenomeni criminali, tribali e jihadisti. E questo incrocio in realtà oggi a esistere, a essere molto, molto pericoloso. In Siria si sta cercando di emarginarli, di marginalizzare, diciamo così, questa parte, al-Nusra, questi gruppi jihadisti, da una parte più, si può dire, più dialogante dell'opposizione, ma è molto difficile. C'è stata una lunga sessione dell'opposizione a Istanbul, che lei avrà probabilmente seguito, da cui però non sono uscite ancora decisioni definitive neanche sulla presidenza di questo Consiglio nazionale. Quindi è un compito davvero difficile. Una delle grandi remore è in effetti questa, cioè quale sarà un post Assad nel caso in cui Assad fosse sconfitto, cosa che oggi appare effettivamente difficile. Grazie. Allora, Vice Ministro agli Esteri Marta Dassù, buona serata, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Nessun luogo è lontano. Sovranità in conflitto, sovranità in bilico, sovranità fragili, di questo parliamo questa sera. Nessun luogo è lontano, in diretta da Piazza Pasi, Festival dell'Economia di Trento, se state passando di qua buttate l'occhio al monitor, tutti i luoghi, di nessun luogo è lontano. Vi ricordo le coordinate: 349-238-6666, Twitter nessun luogo 24, la pagina Facebook. Un paio di twittate: un ascoltatore dice Israele dovrebbe essere più preoccupato delle armi saudite, eventualmente europee, date direttamente ai terroristi in Siria. E poi una collega che ci scrive su Facebook, che è appena tornata al Libano, che ribadisce come i campi profughi nel paese stiano scoppiando. Intanto do il mio benvenuto, la mia buonasera al professor Vittorio Emanuele Parsi, che dirige l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali alla Cattolica. Professor Parsi, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a voi. Le giro immediatamente la provocazione che ho tentato di fare con il viceministro Dassù. C'è il rischio in Siria di una sovranità terroristica? Beh, la sovranità, al di là di quella che è la questione formale, diciamo così, consiste poi nel controllo di un territorio. Abbiamo avuto episodi di questo tipo, a parte quello ricordato dal viceministro Dassù, per esempio in Afghanistan, se lo siamo già dimenticati, quando Al-Qaeda di fatto aveva, diciamo così, una capacità di muoversi, di usare l'Afghanistan come una piattaforma per le sue azioni terroristiche, il Sudan in precedenza, per cui la Somalia, quindi altro che, se possibile. E a questo punto è la domanda, il contraltare: esiste ancora una sovranità siriana? Beh, in questo momento in Siria c'è una guerra civile, quindi per definizione la Siria è in questo momento, diciamo così, la sua sovranità è contesa. Il problema è contesa tra chi e chi, perché da un lato è semplice identificare il regime di Assad, e dall'altro è difficile capire che cosa sia questa costellazione di forze ribelli che non riescono poi a dare davvero vita a una posizione di carattere politico, a un cartello delle posizioni in grado di muoversi politicamente. Ecco, lei citava il Sudan, citava l'Afghanistan, a me verrebbe da citare il Mali in caso di sovranità terroristica, perché è una crisi, diciamo, in via di risoluzione dopo la quinta marcia innestata dalla Francia per risolvere quella crisi. Lo ricorderete tutti, il nord del Mali era sostanzialmente in mano a tre gruppi estremisti armati che hanno imposto la Sharia nel nord del paese, gruppi tra cui Al-Qaeda nel Maghreb Islamico e il Mujahideen, il Movimento per l'Unicità, e la Jihad nell'Africa occidentale, oltre altri gruppi Tuareg. C'è un altro esempio, questo fu un esempio classico di lassismo da parte dei paesi vicini, dei paesi coinvolti, e anche dell'Occidente, se vogliamo, cioè si è lasciato che Mokhtar Belmokhtar, il famoso Guercio, o Mr. Marlboro, se volete, addestrasse i suoi, le sue brigate, e poi Timbuktu cadde con tutte le conseguenze del caso. Un altro grandissimo caso di lassismo, una missione, un paese di cui mi sono occupato parecchie volte e anche di recente, è quello della Repubblica Democratica del Congo. Ed è un paese, passatemi il termine, malato, come mi ha detto nel piccolo villaggio di Minova il colonnello Kirasi Menge. È come un malato che soffre e come medicina, al posto di cercare di combattere la malattia, gli viene somministrato un anestetico. All'inizio può sembrare che il malato sia guarito, ma passato l'effetto dell'anestesia sull'organismo, il dolore si ripresenta. Perché finiamo a parlare di Repubblica Democratica del Congo e poi di Mali? Alla fine mi sembra di poter dire che esistono sovranità di serie A e sovranità di serie B. In fondo in Africa appetiti stranieri, l'Occidente interviene quando e come vuole. Se ricordiamo il caso libico come quello maliano, a un certo punto la Francia ha deciso di intervenire, salvo poi farsi mettere sulla testa il cappello internazionale. È così, professor Parsi? Esiste una sovranità di serie A, quella nostra, quella occidentale, e una di serie B, l'Africa? Beh, esiste intanto in termini storici, nel senso che non dobbiamo dimenticare che gli stati e la sovranità degli stati sono il prodotto di una lunghissima evoluzione secolare che inizia sostanzialmente verso il 3-400 in Europa. In Africa in realtà abbiamo a che fare con stati frutto della decolonizzazione, i cui confini sono stati tracciati, e questo vale anche per il Levante nel Medio Oriente, sono stati tracciati con lo scopo effettivo, preciso, di incorporare all'interno di un solo contenitore una serie di minoranze in osservazione al principio divide et impera. Una volta che sono diventati indipendenti, questi stati hanno trovato non più l'opportunità, diciamo così, del dominio coloniale, ma hanno trovato il problema che derivava dalla eredità coloniale, spesso con apparati assolutamente fatiscenti e con solo le forze armate come elemento in qualche modo strutturato. Ecco, fra l'altro le forze armate è la grande incognita, se vogliamo, in Repubblica Democratica del Congo, perché è un esercito che è poco più di un'armata Brancaleone, frutto di un insieme di tante milizie, e verrebbe da pensare nuovamente alla Siria del futuro, se vogliamo. Vi faccio sentire ancora una volta la voce di questo colonnello, Kirasi Menge. Lei, professore, citava la storia. Ebbene, questo colonnello sembra avere una visione storica molto lucida, molto molto precisa. Voi sapete che secondo la Bibbia non c'è nulla di nuovo in questo mondo. Si va verso una situazione che abbiamo già visto nel 1980, nel 1960, ma che va ancora a ripetersi oggi, nel 2013. Per esempio, io penso che se parliamo della secessione del Katanga, se parliamo delle varie ribellioni, tutti sanno che se discutiamo per esempio della guerra degli 80 giorni nel 1977 e così di seguito, è facile accorgersi che è una storia che si ripete ancora oggi. Ma l'analisi che faccio io è la seguente. I 32 anni di governo di Mobutu non sono stati altro che 32 anni di distrazione. Di svago. È come un malato che soffre e, come medicina, al posto di cercare di combattere la malattia, gli viene somministrato un anestetico. Poi il malato potrà credere di essere guarito, ma passato l'effetto dell'anestesia sull'organismo, il dolore si ripresenta. Per questo motivo, per capire ciò che stiamo passando oggi, bisogna andare nella profondità della politica. Chi oggi è in lotta contro i congolesi sono i figli di coloro che erano al fianco di Mobutu, benché Mobutu fosse consapevole che erano stranieri. Ma adesso ci sono i loro figli. Voglio dire che durante quei 32 anni di distrazione, i loro figli hanno studiato i congolesi che intanto passavano il tempo danzando. Invece che impegnarsi, rinascere, invece che alzare la testa con un ideale trasmesso dal nostro gran leader Mobutu, noi siamo stati distratti da tutto ciò. Ed è per questo che poi Mobutu dirà, dopo di me il diluvio, lui ha mal preparato il paese. Usavi per lei dei microbi. Lei ha parlato di malattia, di microbi. Ecco, oggi chi sono i microbi che minacciano il vostro paese? I microbi sono quelli che voi stessi conoscete già, le guerre a ripetizione. C'è solo una categoria di persone che utilizza questi diversivi. Non fa dei nomi, quindi? Non posso citare qualcuno, ma voi sapete chi sta combattendo i congolesi oggi. Colonnello Kirasi Menge non fa nomi, però si stava riferendo evidentemente a Ruanda, piccolo paese vicino che da sempre incide fin dal 94, poi dal genocidio, anche prima se vogliamo, sulla regione del Kivu. Quella frase che diceva Mobutu, dopo di me il diluvio, è una frase che abbiamo sentito anche da altri regimi che poi sono caduti, no? Professor Parsi. Sì, da Gheddafi, la dice anche Assad, la diceva Saddam Hussein. In realtà, sostanzialmente, in tutte le società frammentate, cioè che hanno al loro interno una serie di minoranze, possono essere minoranze etniche, possono essere minoranze religiose, possono essere gruppi tribali ostili da tempo, la soluzione dell'uomo forte è stata quella che più assomigliava al governo coloniale. Un potere di fatto esterno che controlla dall'alto il popolo. Nel momento in cui si esce da questa soluzione, le contraddizioni sono tante e il rischio che la situazione possa sfuggire di mano non è basso, tanto più se questa transizione avviene attraverso una guerra civile magari lunga e sanguinosa come in Siria. Sovranità in bilico al centro della puntata di Nessun Luogo Lontano, questa sera in diretta da Piazza Pasi, il Festival dell'Economia di Trento. Voglio un attimo riaprire il capitolo maliano. Che abbiamo ricordato la sovranità di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, di Mokhtar Belmokhtar, che poi in realtà se ne è uscito perché è troppo indisciplinato, ne faceva di cotte e di crude troppo anche per Al-Qaeda nel Maghreb. Insomma, una sovranità estremista di matrice islamica nel nord del Mali, dentro uno Stato sovrano. La Francia poi è intervenuta, con gli esiti che sono tutti da andare a vedere, perché non sappiamo. Adesso interverranno i caschi blu, l'Olanda lascerà il testimone a qualcuno. qualcun altro, una notizia che è passata un po' sotto traccia ma mi ha incuriosito particolarmente è la disponibilità della Cina a inviare almeno 600 uomini, 600 soldati in seno ai caschi blu. E quindi, insomma, è forse una novità, se vogliamo, nel continente africano. La Cina ha grossi interessi, soprattutto economici, ma per la prima volta, attenzione, entra con i fucili in braccio, in mano. Sì, questo ci dice da un lato che c'è una assunzione di responsabilità della Cina, che spesso è stata accusata di essere, diciamo così, poco attiva nell'assumersi appunto un ruolo maggiore rispondente alla sua importanza nel sistema delle Nazioni Unite. È anche vero che i cinesi, guarda caso, scelgono il Congo, ossia una regione che è contigua alla grande area di espansione cinese che sostanzialmente si muove lungo l'oceano Indiano, per cui anche su questo credo che ci sia molto da guardare con attenzione, perché la pacificazione del Congo potrebbe aprire un'autostrada per gli interessi cinesi, che in questo momento arrivano proprio quasi a lambire i confini del Congo. Sì, ma fra l'altro insomma la Cina si sta muovendo in maniera sistematica nel continente africano da tempo, va poi a costruire strade ad esempio, costruisce grandi infrastrutture e sta iniziando a assumere sempre di più manodopera locale, che è un po' la grande chiave, se vogliamo, no, della penetrazione cinese nel continente nero. Il caso di scuola è questa grande fabbrica di scarpe vicino ad Addis Abeba, un grandissimo comprensorio che fabbrica scarpe per marchi di lusso, dove, se non erro, almeno due terzi dei dipendenti sono proprio etiopi. Allora, stiamo in Africa, vi voglio raccontare però una storia diversa di sovranità, che è il tema della puntata di quest'oggi. Stiamo parlando di sovranità in bilico, sovranità fragili, no? Che non reggono agli urti magari dei paesi vicini o dei continui conflitti, a volte una sovranità mancata, come nel caso del Mozambico, che è stato oggetto di un convegno proprio qui a Trento, non solo non fa mettere radici al paese, ma anche le toglie, e parlo di radici materiali, di alberi. It's a green dream. E questa incredibile storia di un corposissimo traffico illegale di legname in Mozambico è il cuore di un progetto fotografico di un fotografo italiano di base però a Lisbona, che ha lavorato lungamente in Mozambico. Si chiama Tommaso Rada. Tutto questo ve lo racconto però subito dopo il traffico. Nessun luogo è lontano. It's a green dream. La storia di un albero, uno dei tanti, un tronco di ebano rosa, è un po' il cuore del lavoro fotografico di Tommaso Rada, che ha lavorato in Mozambico, e ci racconta lui che cosa significa il traffico illegale di legname. Il reportage che ho fatto in Mozambico racconta un po' la storia degli alberi mozambicani, in un certo senso, dei legni pregiati, che in Mozambico sono l'ebano nero e l'ebano rosa, l'ebano africano. La storia degli alberi mozambicani, o di un albero mozambicano se vogliamo, è la storia di un albero che viene tagliato al limite del parco della Gorongosa, il più grande parco mozambicano. Quest'albero viene tagliato nel parco perché le concessioni forestali al di fuori del parco già non hanno alberi che possono essere tagliati, sono stati già tagliati tutti dalle varie imprese mozambicane. Quindi dei boscaioli mozambicani che lavorano per imprese mozambicane hanno segato in pieno giorno quest'albero, in pieno giorno perché non esistono abbastanza controlli, o perché i controllori che esistono spesso sono corrotti. Quindi l'albero viene trasportato fino a Beira, che è la seconda maggiore città mozambicana al centro del Mozambico, sul mare, dove c'è un grande porto, e a Beira viene segato in tavole di legno, e infine viene venduto a un'impresa cinese che lo trasporterà in Cina, dove verrà lavorato per diventare una credenza, un tavolo o una sedia. Ecco, giusto appunto si parlava, come dire, della ingombrante presenza cinese per certi versi, tanto più ingombrante quanto il Mozambico diventa un caso di scuola, nel senso che il suo bilancio dipende per due terzi dagli aiuti stranieri, ci sono alti livelli di corruzione e lì dove appunto questa sovranità è così fragile, così vacillante, possono accadere anche questi traffici illegali con i rischi per l'ambiente che il fotografo Tommaso Rada ci racconta. Non ci sono più alberi il cui tronco supera i 50-60 centimetri di diametro. Ci sono quindi alberelli o arbusti e intere zone sia del parco della Gorongosa sia delle foreste attorno sono completamente bruciate. Incendi controllati, che poi spesso diventano incontrollati, vengono utilizzati per individuare gli alberi maggiori. Per questo motivo le foreste sono sostanzialmente, anzi non sono, perché sono ormai tutte cenere. Si vede perché non esistono quasi più foreste. Il rischio di una deforestazione così selvaggia è innanzitutto un rischio a livello di fauna, che ovviamente scompare. È un rischio a livello di, insomma, è rischioso perché può causare maggiori incendi e soprattutto durante i periodi di pioggia può causare alluvioni e vengono a mancare a livello di terreno tutte quelle componenti che creano il terreno fertile e quindi buone coltivazioni per la popolazione locale. E questa è la drammatica fotografia che ci consegna il fotogiornalista Tommaso Rada. Il suo lavoro peraltro ha vinto il primo premio del fotogiornalismo in Portogallo nella categoria ambiente. TommasoRada.com, poi andate a cercare sulla nostra pagina Facebook il link, così vi potrete godere il suo lavoro. Sovranità in pericolo, sovranità in bilico, ma anche sovranità sovranazionali. Proprio pochi giorni fa l'Unione Africana ha festeggiato i suoi 50 anni. Non c'è solo l'Unione Africana, ad esempio c'è l'ONU, che è un altro organismo che detiene una sovranità sovranazionale. E con quali poteri, con quale prerogative? Vi faccio ascoltare la provocazione in questo senso di Mario Capanna. Immaginare un organismo che permetta il protagonismo insieme dei popoli, non degli stati. Se voi guardate anche la carta delle Nazioni Unite, dice no, i popoli della terra, poi due righe sparisce, i popoli spariscono e vengono in primo piano gli stati. Ed ecco perché l'ONU non funziona, è una sorta di ferro vecchio obsoleto. Allora, siamo 6 miliardi e mezzo, quasi 7 di bipedi umani, e organizzati in stati, eccetera, con interessi confliggenti, così. Perché non immaginiamo di immaginare questo concetto, di realizzarlo? Ciò che riguarda tutti deve essere deciso da tutti, elementare. L'idea di un Parlamento mondiale. So che il termine può suonare impopolare, visto il ruolo dei parlamenti oggi, ma cerchiamo di traslare, di trasporre, no? Non ci vorrebbe niente dal punto di vista tecnico. In 24 ore, seguendo i fusi orari della Terra, si vota in tutti i paesi. E si nomina, ad esempio, un parlamentare ogni 6 milioni di abitanti della Terra. E avremmo un Parlamento di 1000 persone. Più o meno quanti sono i deputati e senatori attualmente in Italia. Lo vogliamo un pochino più rappresentativo? Eleggiamo un parlamentare ogni 3 milioni di abitanti della Terra. E avremmo un Parlamento di 2000 persone, sempre meno del pletorico apparato che popola il Palazzo di Vetro a New York. In un simile consesso parlamentare, nemmeno se India e Cina, i due paesi più popolosi, si alleassero avrebbero la maggioranza. Non ce l'hanno. Devono comunque mettersi d'accordo con gli altri. In assenza di questo organismo, qual è l'alternativa? È che ognuno fa le pippe sue. E così la provocazione, se volete, dell'ex leader del movimento studentesco, Mario Capanna, che dice l'ONU così è un ferro vecchio, facciamo il Parlamento dei popoli. Professor Parsi, utopia, provocazione? Una provocazione che va bene per parlare un po' dell'ONU, per ricordare almeno una cosa, che al di là di tutte le cose che non funzionano nell'ONU, sono tante, dobbiamo sempre ricordare che nei paesi di cui stiamo parlando, negli scenari di cui stiamo parlando, spesso la presenza di agenzie dell'ONU significa la differenza tra la vita e la morte per centinaia di migliaia di persone, quindi questo non dovremmo mai dimenticarlo, perché altrimenti rischiamo di perdere di vista qualche cosa che è stato molto significativo in questi ultimi 50-60 anni. Sì. E, fra l'altro citavo poco fa l'Unione Africana che ha festeggiato i suoi 50 anni. Beh, lì qualche problemino l'ha avuto nella storia. Se non vogliamo andare fino agli anni 60, stiamo in quella che è stata ribattezzata la cosiddetta primavera araba, quando nei consessi di Addis Abeba i giornalisti andavano a chiedere ai vari leader da Gheddafi in giù cosa stesse succedendo nei loro paesi. Questi si girano dall'altra parte, tutto a posto, non sta succedendo nulla. Insomma, l'Unione Africana appariva come insomma, un animale quasi imbalsamato, no? senza prerogative. Sono questi organismi sovranazionali utili, efficaci, efficienti nel caso africano di sovranità di serie B, e lo dico con tutte le virgolette del caso? Beh, in qualche modo sì, in un senso, che rispetto a quell'azione per esempio dell'Unione Europea, che è stata quella di assumere su di sé una parte delle funzioni della sovranità degli Stati, nel caso dell'Unione Africana c'è un tentativo di rafforzare la sovranità dei singoli stati, talvolta anche un tentativo, se vuole, opinabile, questionabile, come nel caso appunto della decisione dell'Unione Africana di sostenere il Kenya nel non consegnare i due importanti uomini politici alla Corte Internazionale di Giustizia, sì, proprio nel nome della sovranità degli stati africani. Sì. È una funzione diversa che è legata alla diversa dinamica di queste sovranità. Qui dobbiamo costruirle le sovranità prima ancora di poter pensare di metterle in comune. Sì. Poi però mi viene da dire che la Corte Penale Internazionale non ha occhi che per l'Africa, perché ultimamente mi sembra che all'AIA ci finiscono parecchi leader africani, poi specie dal Congo, uno degli ultimi casi è il generale Bosco Ntaganda che si è macchiato di vari crimini. Però mi sembra che, no? Come è questo vero, organismo ce l'ha un po' con l'Africa? È vero, ma è anche vero che in Africa, tutto sommato, a parte il Levante in questo momento, a parte la Siria, a parte appunto alcuni casi più particolareggiati, è proprio l'Africa in cui si concentrano i maggiori casi di sovranità in bilico e di comportamenti ampiamente oltre di quello che potrebbe essere qualunque canone di tollerabilità politica. Allora, siamo quasi in chiusura, non mi resta che ringraziare il professor Vittorio Emanuele Parsi, che dirige l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica, per averci raggiunto qua in studio. Allora, Paolo, titoli di coda. E ringrazio quindi Benetta Acri in redazione che ha confezionato con me questa puntata, Valeria Bernardi che ci segue da Milano, il team di Trento, Valentina Magri e Paolo Corleoni. Ringrazio voi per essere stati all'ascolto. Chi ha buttato l'occhio qui in piazza Pasi, l'appuntamento è per sabato prossimo, ore 19:15, quando nuovamente nessun luogo sarà lontano.